Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Più puntuali di così non si potrebbe essere. Sono le 21 in questo preciso istante e anche con i secondi ci siamo. Buonasera, buonasera da Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spalaore, che anche questa sera, giovedì 16 febbraio 2012, è qui presente per la sua trasmissione che va in onda tutti i giovedì, appunto dalle 21 alle 22.30. Questa è una serata importantissima. Prima però saluto il mio cordialissimo e simpaticissimo compagno. Ciao nonnetto. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ben ritrovato Maurizio Calzavara. Sì, allora, dicevo, questa è la vostra emittente. Prima di farvi sentire l'ospite straordinario questa sera, un grandissimo artista professionista, ma ne parleremo tra qualche istante. Vi ricordo i nostri dati tecnici. Prima di tutto il numero telefonico, che stasera vorrei insomma sentire qualche sms, qualche messaggio per chiedere qualcosa a questo grande artista del jazz. Dicevo, l'sms quindi è il 346 23 20 0 33. Mentre per quanto riguarda il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Siamo anche in streaming audio sul nostro sito www.bluradioveneto.it, oppure ci trovate anche sulle pagine di Facebook, che sono semplicemente Blu Radio Veneto e Blu Radio Veneto Rock Way, gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, il quale succederà dopo di noi alle 22.30 con la sua musica rock e la sua classifica rock. Allora, questa sera intanto ringrazio anche la Chiara, che stasera è arrivata puntuale. Ben ritrovata anche a te, che ci fa le foto. Ma soprattutto ringraziamo un grande ospite, dicevo, che è venuto a trovarci, presentazione del suo disco in anteprima, e ci fa molto onore e siamo veramente felici, fieri di averlo qui. Abbiamo Jacopo Jacopetti. Buonasera a tutti. Benvenuto e ben ritrovato a distanza di un anno più o meno. Sì, più o meno un anno. Se ci parla un po' più vicino al microfono, perché... Meglio così. Ecco, perfetto. Sì, ci onora per una cosa molto importante. Il disco nuovo uscirà a marzo, Jacopo, e sei venuto a presentarlo da noi in anteprima assoluta. Questo, siamo molto onorati di questo, perché il disco a marzo, qui siamo in febbraio, quindi abbiamo anticipato l'uscita praticamente. Sì, lo abbiamo anticipato anche perché ci saranno delle presentazioni ufficiali col gruppo in zona, esattamente il 28 di questo mese alle Cantine dell'Arena Verona, il primo di marzo al Q qui a Padova e il 3 di marzo al Vapore a Mestre. Di presentazioni ufficiali proprio, con sì, la band. Certo, con la stessa band del disco. Questo French Quartet, quartetto francese, come mai, Jacopo, questo progetto nuovo col quartetto stavolta? Ma è nato da un incontro con alcuni musicisti francesi, casuale. Ero in Francia ancora 3 anni fa e mi è capitato di assistere ad un concerto di un trio. E allora alla fine del concerto mi sono avvicinato, avevo visto che anche la sera successiva loro sarebbero stati nello stesso locale, e allora gli ho chiesto se era possibile, magari se venivo col mio strumento, fare tuo sax insieme. E allora hanno detto sì sì, certo, tranquillamente. Il giorno dopo, dopo un po' che suonavano, io sono arrivato, mi hanno visto, mi hanno invitato senza avermi mai sentito. Ecco, perché una cosa interessante della tipologia proprio dei jazzisti, senza avermi mai sentito, cioè sono stato invitato immediatamente, perché è nato subito un feeling, un collegamento, una liaison, come si ma dice. Insomma, in quel caso lì è stato un po' un rischio, perché potevo essere anche un cartone. No, ma loro t'hanno visto che non eri un cartone. No, vabbè, insomma, no. È andata bene, nel senso che abbiamo cominciato a suonare e ci siamo resi conto che eravamo un po' sulla stessa lunghezza d'onda e abbiamo cominciato a trasferirci delle emozioni a vicenda, per cui quando succede questo e succede qualcosa nella musica è la cosa più bella. E da lì è nata poi un'amicizia, abbiamo suonato altre volte sia lì in Francia, poi ho organizzato io dei concerti qui in Italia e poi a un certo punto ho sentito la necessità di incidere qualcosa con loro, in modo che rimanesse qualcosa di concreto. Rimanesse traccia praticamente, sì, di questa. Esatto. E citiamolo, questi amici, questi colleghi, questa band. Allora, questa band vede al pianoforte Robert Percy, che è un pianista veramente eccellente, che insegna al Conservatorio di Nizza. Poi Marc Peillon, sempre francese, sempre nizzardo, che è responsabile di, credo, un conservatorio e una scuola privata molto importante, musicale, sempre a Nizza. E nel disco c'è Rodolfo Cervetto, mm-hmm. che è invece un batterista che è entrato nel quartetto successivamente ad Alain, che era il primo batterista del gruppo. E quindi con lui c'era una certa affinità musicale e lui suonava molto con questo contrabbassista, per cui loro si trovavano bene a suonare insieme. Ho detto va bene, proviamo così, e il risultato è questo. È andato avanti il progetto, si è sviluppato, si è ingrandito ed è stato inciso il disco praticamente. Sì, come ti dicevo prima a microfoni spenti, questo è il titolo è No Voices, quindi indica che in questo disco non ci sono pezzi cantati, diversamente dal disco precedente esatto, che si chiamava appunto Voices e che vedeva sei cantanti differenti e con uno spiegamento anche di musicisti, con un'orchestra d'archi in due pezzi, con un quartetto Tottoni in altri due pezzi. È stato quello un lavoro molto, molto lungo, della durata quasi di un anno. Mentre questo è durato un giorno. Un giorno, ragazzi, un giorno, quindi una cosa incredibile. Quindi in 7 ore abbiamo registrato questo disco e poi in altre 4-5 l'ho mixato. Bene, cosa però il lavoro precedente, cito solamente una cantante, c'era l'Antonella Ruggero. Antonella Ruggero, certo. Sì. Poi sì, c'era sì. La Cozzolino. Sì, l'Antonella Cozzolino, c'era Alan Farrington, e vorrei nominare tutti, ma certo, Silvia. Silvia Donati, certo. Era un lavoro diverso, cioè era un progetto diverso, un po' fine a se stesso. Questo è anche permette di essere divulgato in maniera più facile, perché un quartetto ovviamente suona, certo, suona più facilmente in club, diversamente dal progetto precedente. Chiaro. Apriamo questo progetto, sì. Sentiamo il primo pezzo della scaletta. Io direi di far ascoltare il disco c'è la canzone che apre il disco, okay. Che si chiama? La facciamo dire al dottore. Sì, and White Was the Color of His Shirt, è un pezzo che è dedicato ad un carissimo amico che purtroppo è passato nel mondo dei più e che amava moltissimo le camicie bianche. Lui era quasi sempre vestito con una camicia bianca, allora l'ho dedicato appunto a lui. And white was the color of his shirt. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Canzone di apertura del nuovo disco di Jacopo Jacopetti e del suo French Quartet, si chiama questo disco No Voices. Prima di continuare questa chiacchierata con questo grande sassofonista, io già le porgo dei saluti. Jacopo, c'è Maria Elisa, no anzi scusa, Anna Elisa e Maria Stella, che la stanno ascoltando, sono delle carissime persone. Allora, anche di Facebook. Le saluto in diretta. Ecco. Maurizio. Allora, Jacopo, Mark, Robert e Rodolfo si intrecciano con te in questo pezzo praticamente. Sì, sì, sì, direi di sì. È un pezzo che nasce proprio da un ritmo della batteria e poi si sviluppa con l'ingresso abbastanza energico un po' di tutti di noi tre. Esattamente. E così e doveva essere così, doveva aprire così il disco. La tua idea è partita così oppure è stata perfezionata con il tempo? No, no, no, poi la decisione di cominciare col pezzo, con questo pezzo, niente, l'ho presa dopo. Prima abbiamo registrato i pezzi, poi ho pensato alla scaletta. Alla scaletta, chiaramente. Sì. La scaletta è fondamentale. Sì, secondo me sì, è importante che ci sia un giusto seguito a un pezzo, è come un libro che ha un capitolo e poi c'è un secondo capitolo. Cioè io intendo i CD o i vecchi long playing in questo modo, insomma non... cerco sempre di alternare anche le dimensioni e le situazioni dei pezzi, cercando di appunto di cambiare clima ogni pezzo. Che clima si respirava quando assieme negli anni 80 hai fondato la Italian Repertory? Repertory Quartet. Citiamo quei musici straordinari con cui hai suonato. Questi erano Gianni Cazzola, che era l'ideatore principale di questa idea, che ha voluto svilupparla con Marcello Tonolo, Piero Leverato e il sottoscritto. E il sottoscritto, cioè te, praticamente. Sì, all'epoca abbiamo fatto un bel CD, un disco, all'epoca c'era sia il CD, i primi CD e il vinile. E abbiamo suonato in tutti i più importanti festival qui in Italia, per cui credo che di più non si potesse fare. L'idea originale del progetto è il fatto che molti jazzisti scrivevano dei pezzi per noi. Sì. Bello questa idea, molti jazzisti scrivono pezzi per voi. Sì, noi li richiedevamo e perfino Enrico Rava, Enrico Pierannunzi, insomma stiamo parlando di grandi nomi del jazz italiano, e ci hanno regalato queste chicche che poi noi suonavamo in giro e è stata una bellissima esperienza. Ma c'erano anche pezzi vostri? Sì, anche pezzi nostri, sì, anche pezzi. Io mi ricordo che un pezzo che non era nostro, ma è un pezzo a cui ero molto affezionato, era un brano che io immaginavo scritto da Bruno Lauzi. Ah, però. Invece poi proprio Bruno Lauzi... Parliamo dell'amicizia che tu hai avuto con Bruno Lauzi. No, l'ho conosciuto casualmente. Casualmente. Che purtroppo lui era già malato. Ah. Aveva già questi problemi di mimica, per cui era una persona molto spiritosa e abbiamo passato un'ora e mezza a raccontarci barzellette, solo che lui rideva senza cambiare l'espressione perché ormai la mimica era andata. E gli dissi proprio in quell'occasione, sai, io avevo riarrangiato questo pezzo tuo, non era mio, ma era del chitarrista che suonava con me, per cui non so neanche di chi fosse quel pezzo. Però era un pezzo che si chiamava Vicoli, di cui posseggo ancora una registrazione dal vivo a cui tengo molto, ed era molto bello, uno dei pezzi che veniva molto bene dal vivo ed era molto apprezzato durante i concerti con quel quartetto. E poi sei passato, abbiamo citato Bruno Lauzi che è un cantautore di grande importanza, sei passato all'ambiente pop, hai largato l'ambiente pop, le tue esperienze nell'ambiente pop, molto importanti, fondamentali. Sì, quella è stata... Perché giustamente... mi dicevi a microfono spento che tu volevi sperimentare. No, lì ho avuto un'opportunità dell'amico Sergio Cossu, che all'epoca che all'epoca era il tastierista dei Mattia Bazar, mi invitò per fare il solo in un pezzo, e questo era, se non erro, l'album Melancolia, quello dove c'è Ti sento. Sì. E e così il gruppo fu, così, fu entusiasta di quello che feci e mi offrì subito l'opportunità di stare nel gruppo durante la tournée che c'era in quel periodo, quindi andammo avanti per un anno e mezzo, forse di più, adesso non ricordo esattamente, comunque girando l'Italia, la Germania, insomma un po' l'Europa, anche il Giappone, abbiamo fatto delle bellissime suonate in giro per il mondo. E un musicista jazz fondamentalmente che si immerge nella musica pop, che idea poi ha praticamente? Come sviluppa il disco? Ma secondo me ci sono due approcci. C'è quello che dice: io sono musicista jazz e suono come suono e se volete suono così e basta. E invece c'è chi cerca di adattarsi ad un clima sonoro anche differente, e comunque anche devi avere forse un po' più rispetto di parti già scritte ed obbligate, diversamente dal jazz in cui c'è una maggior libertà da parte di ogni esecutore, per cui insomma, ecco, secondo me c'è una leggera differenza, neanche tanto leggera. Io ho un ricordo bellissimo comunque di Jacopetti sulla canzone In musica è di Ramazzotti, perché la suite è sua. Sì, Eros. Quel pezzo lunghissimo di Eros, In musica è. Sì, musica è, l'ho fatto solo io. Lì è stata era un periodo in cui appunto suonavo con i Matti Bazar e il loro arrangiatore era Celso Valli. Mitico. Che all'epoca arrangiava anche Eros Ramazzotti, per cui mi chiamò e mi invitò e mi dice: c'è un pezzo da fare, e questo pezzo durava quasi 11. Mezz'ora, 20, no, non so, 11, minuti. 11 minuti, sì, 11 minuti, sì. Per me era lunghissimo ma e lì mi diede veramente una grandissima libertà, perché lui mi disse: guarda, questo è, suonaci sopra, poi da qui decidemmo poi di tenere delle parti, di migliorarne delle altre, però è stato un bellissimo lavoro. Anche perché ti dicevo prima, mi è successo recentemente, sarà 3-4 anni fa, di sentire, non mi ricordo, ero in macchina alle 2 di notte in una radio privata che non so neanche quale fosse, ho sentito un gruppo che suonava la suite musica è. E il sassofonista si era tirato giù nota per nota quello che io avevo suonato, quindi come se fosse un obbligato invece che magari suonare qualcosa di suo. Però è stata una bella soddisfazione. Vuol dire che secondo lui il suono era perfetto. Quello andava bene. Andava bene al 100%. E poi ricordiamo la Madonna Navanoni. Sì, con Ornella Vanoni, Fabio anche Concato. Lì ho fatto una tournée in Italia, in Argentina per un anno, e Fabio Concato, con Concato un'unica esperienza che era quella del numero telefono azzurro, per cui abbiamo lavorato anche lì sempre con Celso Valli che dirigeva, e abbiamo lavorato tutti per beneficenza, e mi ricordo che all'epoca, sono diversi anni, e mi pare raggiungemmo i 100 milioni per il telefono azzurro. Sì, è una cosa molto molto importante. Sì, che bello questo. C'è già una domanda. Chiede Marco, per cortesia, chiedi a Jacopo quali differenze ci sono tra suonare ed incidere in Italia o all'estero? Ma io non ho mai inciso all'estero, ma quando incidi sei in uno studio, che tu sia in Italia o all'estero, poco cambia. Sicuramente all'estero è troppo vago, diciamo, negli Stati Uniti ci sono degli studi fantascientifici, certo. E qui in Italia ci sono tanti studi buoni, e sicuramente l'avvento del digitale ha un po' equiparato queste distanze che una volta con l'analogico erano molto più ampie, quindi già in un discreto studio digitale oggi come oggi puoi avere una buona, una discreta qualità. Certo, certo. Ci sono etichette di jazz in Italia, una di Bologna molto importante, molto famosa, molto interessante. Quindi, come tu giustamente hai detto, le distanze sono diminuite. Una volta, certo, suonare e incidere negli Stati Uniti era il massimo. Sì, ma voglio dire, oggi come oggi, con una discreta scheda audio in casa e un computer, un programmino, puoi fare una registrazione che qualitativamente un tempo era impensabile. Tu hai citato una cosa molto positiva prima, secondo me, hai parlato del famoso treno che avete preso da Padova per andare a Montreux, e a me veniva in mente del famoso, della Diane verde che le orme hanno preso per andare all'isola di Wight. È stata una vostra isola di Wight andare a Montreux? Sì. Tra l'altro lui ha suonato anche con Tagliapietra. Esattamente. Sì, con Aldo. Ne vogliamo parlare tra qualche istante, sì, prima certo. Ci ascoltiamo la traccia numero 2, okay. Allora, che sennò altrimenti poi magari rischiamo di non far sentire la bellezza di questo disco, che poi tra l'altro è qui, ce l'abbiamo questa esclusiva che è stata prima e credo sia giusto farla ascoltare. Sì, allora il secondo pezzo si chiama Distacco, se non erro è quello sì, che mi piace. Sì, a me è piaciuto particolarmente perché Maurizio. È un pezzo che entra immediatamente, che è una forma, è una certa melodia nel sottofondo, secondo me. È un pezzo molto importante per me perché è un pezzo che in cui ho cercato di descrivere uno stato d'animo, che è lo stato d'animo appunto del distacco da una persona piuttosto che da una situazione bella, e quindi la perdita di qualcosa che è importante. E anche qui ho cercato di entrare immediatamente in un clima sonoro che credo sia una delle cose fondamentali per creare qualcosa, affinché succeda qualcosa, quindi creare un clima sonoro. Distacco. Thank you. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Credo sia stata la prima canzone che ho sentito da questo disco, se non sbaglio. Quella che mi ha fatto sentire, che mi ha detto: Ago, senta che bella. Sì, è vero? Non mi ricordo. No, no. Credo che fosse ancora in preparazione addirittura. Può essere, può essere. Perché lei sa i gusti del sottoscritto, quindi insomma magari me l'ha detto. Questa è Blu Radio Veneto, dicevo, con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara. Stiamo cercando di conoscere un po' di più questo grande sassofonista italiano, Jacopo Jacopetti, che ha un curriculum alle spalle straordinario. Tra l'altro ha suonato anche con i miei amici Summertime, Maurizio. Ha suonato anche con loro un pezzo dei Doobie Brothers, tra l'altro, e non solo, ma insomma lo trovate tranquillamente su YouTube. Allora, il pezzo finale, questo pezzo finale, si sente la sofferenza, come tu hai detto all'inizio, la sofferenza, proprio una sofferenza musicale, chiaramente, da un certo senso, un certo peso, e per quello a me è piaciuto molto questo pezzo, perché è molto variegato, come ha detto, e alla fine c'è il sax e piano piano finisce il pezzo. Sì, sono contento che ti sia piaciuto. Sì, parecchio. Mi sono fermato più di una volta, scusa, traccia. Bene, bene, bene. Andiamo avanti allora nel tuo percorso, poi c'è stata un'interruzione e c'è stato l'incontro con Sandro Gibellini. Sandro Gibellini è un grandissimo amico prima di tutto e successivamente un grandissimo musicista, credo non ha torto che sia considerato uno dei migliori chitarristi jazz in Italia. La maggior parte degli americani che vengono qui in tournée lo vogliono sempre di fianco, perché... Perché secondo te? Perché ci sono poche persone, pochi chitarristi o pianisti a cui puoi chiedere scusa, facciamo questo pezzo e ti senti rispondere sì, ma quale versione vuoi? Vuoi quella di Pinco Pallino o quell'altra? Perché tanto io le conosco tutte, allora basta che tu mi... Cioè, è veramente incredibile, è straordinario. Ed hai fondato con lui questo un quintetto? Non l'ho fondato, l'ho chiamato perché allora quel primo disco Jacobs che ne parliamo, un disco molto importante. Sì, è il mio primo disco dei quattro che ho fatto ed è arrivato dopo 6 anni di completo silenzio, ma anche distacco completo. Visto che completo, cioè avevo smesso di suonare, avevo preso il sassofono, l'avevo messo sotto il letto. Del 63 il sassofono di Jacopo è lì davanti, lo sto vedendo, bellissimo. E per cui quando ho ricominciato a suonare, dopo un po' ho detto bene, è ora che faccia qualcosa che rimanga ai posteri. Certo. E ho formato questo quintetto e ho chiamato gli amici di un tempo, tra cui appunto Sandro Gibellini, che è stato così gentile di dire ok, ci sono in questo progetto, e abbiamo registrato Jacobs. E già con una recensione all'epoca diceva... Jacopetti, coadiuvato da musicisti di grande capacità, suona e svela un mondo di musica vera suonata, resa pubblica senza artifici, in quella che sembra essere una registrazione impresa diretta dal vivo, buona la prima. Beh, è così. Era così. Cioè, il jazz è questo. È così. È questo, sì, assolutamente sì. Beh, dimmi. Non solo Jacobs, ma anche il disco successivo che è Papito, vede un quintetto base che è praticamente il medesimo. Cambia solo il batterista, che diventa Riccardo Biancoli al posto di Stefano Bagnoli. Esatto. Ma sempre Sandro Gibellini, sempre David Boato e sempre sottoscritto. C'è sempre, e sempre no. Franco Testa al contrabbasso. È un progetto che è sempre in sospeso, non è abbandonato. Sì, no, non è abbandonato, è lì. Ancora adesso, chiaramente. Ancora adesso. Diciamo che ultimamente... E con Sandro preferisco con Sandro Gibellini preferisco magari suonare in duo o in trio, magari invece con formazione più allargata in quartetto o quintetto. Ultimamente preferisco avere un pianoforte alle spalle. Ah, capito. Il discorso del duo, del trio, è una questione anche di posti da suonare, vero? Sì, certo, ovviamente in moltissimi club non c'è un buon piano, e piuttosto che suonare con una pianola o con un piano scordato, allora preferisco riesco a suonare con, un, con una chitarra, e quando, quando la chitarra è Sandro Gibellini, va quindi bene, non ci sono problemi, appunto, esattamente, ormai vi conoscete, quindi è un connubio, insomma, praticamente. Vabbè, con Sandro sì, sì. Tra l'altro Sandro da, non so, 35 anni, quindi veramente una vita. Maurizio, è l'ora, vero? È il momento, Maurizio. Eh sì, è il momento. È il momento, sì, è il momento, sì. Bisogna, vero? È il momento, sì. È il momento. Glielo chiedi tu o glielo chiedo io? Vuoi prendere il sax? Di... No. Vabbè, allora, prima, siccome l'ho citato prima, Papito, farò un pezzo per sax solo. Benissimo. Tratto da Papito. Il titolo è Creepa Joyland. Perfetto. E allora, finché si prepara, che si sistema, noi diciamo che questa è sempre la vostra emittente in questo momento preferita. Abbiamo Jacopo Jacopetti, presentazione del suo nuovissimo disco che uscirà tra qualche giorno, e Blu Radio Veneto è onorata di ospitarlo e di farlo ascoltare, insomma, anche il suo disco. Allora, siamo pronti? Allora, ok. Sentito. Ragazzi, io il sax dal vivo di questo genere non l'avevo mai sentito, e dava una certa sensazione, c'è poco da fare, Jacopo. L'improvvisazione, chiaramente tu hai improvvisato in questo momento, è fondamentale nel jazz, e qui è fondamentale due volte praticamente. È stato straordinario, secondo me. Grazie, grazie. Hai visto come ti guarda? Ma entri subito. Live è bello per quello, perché entri immediatamente quando suoni un pezzo, dai sensazioni ed emozioni, come tu dicevi a microfono spento, ed è fondamentale, se no non si suona, non si è musicisti, secondo me. Certo, deve succedere sempre qualcosa, ti dicevo prima, anche nelle jam session così osannate, se succede qualcosa, bene, bene, ma se no diventa... tante volte non succede niente, ci sono un ammasso di note, chi più ne fa più ne metta, ma la musica è un'altra cosa. Sì, l'atmosfera, il feeling, cosiddetto feeling. Poi quando sei in concerti, magari che fai qualche assolo così, la gente va invisibile, insomma. E nei concerti, il discorso del musica jazz, della band jazz, c'è molta improvvisazione, quello che non succede nel pop e nel rock. O no? O sì. C'è un filo conduttore lo stesso, anche se l'improvvisazione fa parte della musica jazz, al 100%? No, sicuramente l'improvvisazione ha un ruolo fondamentale. L'improvvisazione da parte del solista, mentre poi l'armonia invece è una cosa prestabilita, per cui c'è una certa sequenza di accordi, una certa sequenza armonica su cui appunto il musicista poi va ad improvvisare. Un po' come anche nel pop, quando ti dicono che tu hai 8 battute e in queste 8 battute devi fare il tuo solo. Solo che magari nell'ambito pop, per fare quelle 8 battute spesso ci metti anche un pomeriggio, perché devi trovare una cosa che sia anche melodicamente forte, deve avere l'energia, deve essere in tema col pezzo, tante cose. E qui invece nel jazz è l'attimo che viene l'attimo colto. Un giorno per incidere un disco, un attimo praticamente. Sì. E in questo disco qui l'abbiamo, ti ho detto, registrato in 7 ore, in sostanza non più di 2 take ogni pezzo. Quindi praticamente se non era buona la prima, era buona la seconda. Ma come sono nate queste canzoni? Prima di arrivare in studio, voglio dire. Beh, sono ovviamente state composte, per quanto riguarda i miei pezzi, sono stati composti prima e li abbiamo provati prima di entrare in studio, e li abbiamo definiti con il ritmo e i vari stacchi, la sequenza dei soli e poi siamo entrati in studio. Da come nasce una sua canzone? Non si può definire come nasce, alle volte, più delle volte io compongo per strada, camminando, mi parte una melodia e poi cerco di svilupparla e quando arrivo a casa poi ci trovo l'armonia. E come fai a non perderla? Delle volte l'ho persa, però adesso ci sono i telefonini che possono registrare, perché uno si registra, oppure anche un piccolo registratore. È proprio portatile, che dove mi registro la melodia e poi la sviluppo a casa. E una volta che non c'erano? Una volta che non c'erano continuavo a ripeterla finché la memorizzavo. Dopo, ecco, un mio vantaggio è quello di essere abbastanza portato a memorizzare le cose. Essendo un pessimo lettore di musica, ho sviluppato più la mia memoria. Dovevi essere anche un cantante, sei un cantante sarebbe mancato. Mi sarebbe piaciuto. intanto l'ascoltiamo dal disco. E dopo ne parliamo del cantante mancato. La traccia numero 3? La traccia numero 3 è un pezzo scritto dal pianista, da Robert Percy, il titolo è Trio. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questo è un pezzo scritto da Robert. Com'è stato, Jacopo? Robert ti ha proposto questo pezzo? No, io gli ho chiesto. Gli hai chiesto. Dammi un pezzo tuo, voglio che ci sia anche qualcosa di tuo nel disco. E lui mi ha proposto, conoscendomi, questa bellissima melodia, questo tre quarti stupendo, e è nata Trio, questa versione. Pezzo molto molto bello, poi Mark che specie... suona una specie di valzer iniziale, sì, un andamento di tre quarti, quindi un classico valzer, e Robert ha deciso di farlo cominciare a lui il tema, quindi comincia lui, poi io entro successivamente. Benissimo, ritorniamo al cantante mancato, perché il sax, giustamente a microfono spento mi dicevi, è come, ha una voce molto vicina, ha un suono molto vicino alla voce umana. Il cantante mancato, perché il cantante è mancato? Mancato perché ho una voce, io mi definisco una voce squalo, nel senso mi piacerebbe tanto cantare, ma purtroppo ho un range molto limitato e quasi baritonale. E per cui avevo una necessità comunque di esprimermi e ho pensato di perché non proviamo col sassofono. Questo quando avevo 18 anni e poi da lì è rimasta la mia voce, è rimasta quella. Però forse non lo sai Maurizio, ma lui è anche un grande chitarrista. Questo non lo sapevo. Un plurisumentista. No, suono la chitarra da quando avevo 8 anni, per cui mi serve per comporre fondamentalmente, però non l'ho mai sviluppata più di tanto. Sax fondamentale, cioè sax, questo è il sax del 63, che usi sempre questo sax qua? Sì, il sax tenore, ho solo questo sax qui come tenore e uso sempre questo. Perché giustamente tu dicevi, il connubio è talmente forte che non si può stradicare, deve essere quello. No, perché credo di aver creato la voce che volevo e voglio mantenerla, invece ci sono tanti sassofonisti che ancora dopo tanti anni cercano un cambiamento o qualcosa, cambiano il bocchino, cambiano l'ancia, cambiano il modo di suonare. E vabbè, è una scelta questa. Io ho deciso di mettere un punto al mio suono, che è questo, e me lo tengo. L'hanno già paragonata a Sonny Rollins. Oh sì. Che meraviglia, ricordo Sonny Rollins ha scritto. Sì. Grazie, grazie. Chiedono, troppo buoni. Chiedono se il disco è già possibile acquistarlo su iTunes. Il disco non credo, dovrebbe uscire ai primi di marzo. Quindi è un'anteprima assoluta questa qua. Sì, anteprima assoluta. Esattamente. Quindi qualche giorno di pazienza ancora per chi vuole sapere. Oppure se siete in zona venite ai miei concerti, torno a ripetere quando sono, certo. Che sono il 28 di febbraio alle Cantine dell'Arena a Verona, il 1 di marzo al Q a Padova in Piazza Insurrezione e il 3 di marzo al Vapore a Mestre. A Mestre. Ritorniamo un momento indietro e parliamo del tuo arrivo in treno assieme a Luciano Linzi a Montreux. A Montreux, sì. Che è una cosa fondamentale. 1974. Stiamo parlando di Luciano Linzi, che è un mio carissimo amico e vecchissimo ormai, perché dal 74 sono 36 anni che ci conosciamo, e lui ha fatto, come dicevi tu, una bella carriera, certo. Perché ha lavorato in UEA, in CGD, poi è diventato per molti anni il responsabile della Casa del Jazz a Roma. E invece adesso mi pare che stia lavorando abbastanza con Vinicio Capossela. E ti promuove praticamente, il tuo manager. L'ho nominato io, mio manager, ho detto Luciano dammi una mano, trovami un po' di concerti, e magari lui stando a Roma, magari più nell'Italia centrale, certo. Firenze, Roma. Più facile. Quindi adesso una volta che uscirà il disco vediamo se nasce qualcosa. Qui chiedono qual è il musicista che l'ha ispirato di più sul modo di suonare e comporre. Bella domanda. Tanti. Allora, sicuramente sassofonisticamente parlando, Sonny Rollins ce l'ho nel cuore. Quindi infatti non si è sbagliato. Allora. Non si è sbagliato, no. Poi tanti, tanti melodisti come anche Gatto Barbieri, ovviamente Charlie Parker e John Coltrane, Joe Henderson. Mi piace molto, ma non l'ho mai studiato più di tanto. Dal punto di vista sassofonistico direi questi. Michael Brecker anche se non credo di averlo assorbito più di tanto. Tu hai citato melodisti, hai detto. Sì, perché dal punto di vista della melodia io sto parlando, poi tecnicamente non credo di essere un grande tecnico, non credo di avere una grande tecnica. Io, vedi, anche in questo caso parlo di melodia perché penso forse da cantante, non lo so. Ritorna sempre il discorso. Quindi è una cosa che ho dentro, cioè io sono questo, per cui è inutile che cerchi di essere quello che non sono, cerco di diventare al meglio quello che sono. Certo, certo. Cosa volevo chiedere? Sì, se lei invece dovesse portarsi dei dischi in una fantomatica isola deserta, che noi chiediamo sempre questa domanda, cosa si porterebbe? Tre, ne facciamo tre solo. Beatles? Beh sì, qualcosa di Beatles, sicuramente, forse il White Album. Che è il completo di tutto. Poi come jazz mi porterei sicuramente Kind of Blue di Miles Davis. È un grande amore della mia vita, come cantante, come autore, come chitarrista, James Taylor. Ah, James Taylor, lo vedrai sicuramente fra poco a Padova? Non lo so, l'ho già visto così tante volte, sì, che se vado lì devo dire basta ancora. Dove l'hai visto? Ti ricordi momenti molto significativi per la sua carriera? Il più bello in assoluto concerto di James Taylor che l'ho visto a Verona in una serata strepitosa perché c'era la temperatura ideale. Sono arrivato lì e i biglietti erano finiti. Allora io e mio amico ci siamo arrampicati sopra il Teatro Romano, per cui vedevamo tutto il Teatro Romano, si sentiva come fosse un disco, era una cosa strepitosa. E dietro c'era tutta Verona illuminata con un profumo di lavanda nell'aria. È un concerto che ho nel cuore. Ti ricordi il periodo? Saranno 20 anni fa. Caro. Ricordiamo che il primo disco di James Taylor fu prodotto da George Harrison. Sì, esatto. Dai Beatles. Dai Beatles, perché sì, faceva perché parte dell'Apple. Apple, esattamente. Era un 45 giri. Era un 45 che possedevo, posso dire. Bene, è una rarità. Possedevo. Vabbè, ascoltiamo invece adesso qualcosa dal disco, anche perché è arrivato un suo caro amico. Allora, c'è il grande zio cantante qua. Ciao Kenneth. Allora, ci ascoltiamo la traccia numero 4. Ok. Sì, la traccia numero 4 si chiama New Thing, è una mia composizione per sax soprano. Perfetto. Thank you. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Il nuovissimo disco di Jacopo Jacopetti, French Quartet, si chiama No Voices, di prossima uscita. Ce lo sta presentando in anteprima questa serata così bella, piacevole, all'insegna del jazz, appunto Jacopo Jacopetti, che abbiamo l'onore di ospitare in studio. E io ho una domanda, comunque la sai anche tu, Maurizio, da fare a Jacopo, perché è una domanda a cui ci tengo molto, soprattutto per la nostra città di Padova, perché sta per nascere una cosa che, secondo il mio modesto punto di vista, è stratosferica e eccezionale. Io già ho fatto un po' di pubblicità, un po' di cantanti che sono passati anche di questa emittente e sono tutti entusiasti di questa cosa, ma ce lo facciamo spiegare da lui. Sì, in sostanza sta per nascere un posto per la musica qui a Padova, cioè un posto dove si può ascoltare dell'ottima musica in maniera ideale, cioè con un ottimo impianto, si può mangiare qualcosa, e però non ci sarà solo del jazz, quindi l'idea è quella di fare musica almeno 5 volte alla settimana e di fare una serata anche con la musica classica, una serata per i cantautori, una serata per il pop, una serata per il jazz, e poi probabilmente terremo una serata anche per i nuovi gruppi che nascono all'interno dei conservatori o delle scuole private. Quindi cercherò di coinvolgere più possibile queste istituzioni affinché questo diventi un punto di riferimento per i musicisti e per chi ama la musica. Quindi la cosa importante è che ci sarà la possibilità per chi verrà a suonare anche di registrare il concerto, e ancora più importante l'idea di educare la gente. Non sto parlando ovviamente per i fruitori di musica classica, che abitualmente rispettano il musicista, per cui durante il concerto stanno possibilmente zitti o parlano sottovoce, ma anche per gli altri generi musicali vorrei che al momento del concerto la luci spente in sala, cioè si può continuare a mangiare sotto poca luce, ma la concentrazione e l'attenzione sarà per l'artista sul palco. Quindi questo posto si chiamerà si chiamerà Terminal, e sarà per chi lo conosce l'ex Funky Gallo, quindi abbastanza centrale, in fondo a Via Palestro a Padova numero 62. Dovrebbe aprire a fine mese o nei primissimi giorni di marzo, appena avremo l'ok dal comune, perché c'erano delle piccole cose da chiarire e da rispettare. E quindi chiunque abbia sentito questa buona notizia cerchi di divulgarla il più possibile, perché il passaparola credo sia sempre la forma di pubblicità più efficace. Sì, una notizia importante, perché Padova manca un locale di questo genere, un punto di riferimento soprattutto quello. Sì, perché lo sarà per ogni genere musicale, per cui credo che sarà una cosa importante, ecco, per chi ama la musica, per chi la suona e per chi l'ascolta. E rigorosamente non cover, ovviamente. Inizialmente cercheremo di non fare i gruppi che fanno cover, dopo vediamo, insomma, se le cose andranno bene e si potrà e ci sarà una sufficiente pubblico, andrà bene così. Tu sei stato in Francia spesso? In Francia esistono questi tipi di locali, assolutamente. Ma così, con queste tipologie varie di musica, io non li ho mai sentiti. Cioè, questa è una mia idea, che quando mi è stata proposta di seguire la direzione artistica di questo locale, ho detto pensiamo anche alla musica classica, perché la musica classica ha un suo seguito. E tutto sommato a pochi posti per essere ascoltata, sì. Perché a parte i conservatori, nei teatri, nei teatrini, perché il teatro grande è comunque quasi proibitivo per molti. Invece poter dire ok, vado a sentire della musica classica bevendomi una birra o mangiando una pizza o un piatto di prosciutto, Perché no? Se c'è rispetto per i musicisti, direi approfittiamone. Certo, certo. Visto anche come sta andando il discorso dell'auditorium qui a Padova, che insomma che sembra che non ne voglia nascere, un giorno sì, un giorno no, non si sa, troppi soldi, troppo grande, troppo piccolo. Beh, lì c'è un grandissimo investimento, quindi credo che alla base ci sia quello e anche la possibile interazione con la Cappella degli Scrovegni. Certo. Però comunque il suo progetto assieme ai suoi amici è un progetto molto importante per Padova, proprio per la città di Padova e soprattutto per la musica, insomma. Quindi dando lo spazio a questi 5-6 live alla settimana sono tantissimi. Sono tanti, ma torno a ripetere, ogni sera c'è un genere musicale diverso, per cui può scegliere di tutto. Che bella questa cosa, molto bello, molto interessante. Ci siamo anche noi che diamo una mano comunque, giusto per saperlo, no. Ci siamo anche noi di radio. Vi ringrazio. Benissimo, adesso dobbiamo fare una cosa importante, Jacopo, citare il produttore del disco, che è Roberto Tiranti, che appunto è il responsabile di questa etichetta, che è la TRJ Records, che è una etichetta che è nata da qualche anno in provincia di Mantova e che ha questa cosa abbastanza originale, per cui per alcuni dischi, compreso il mio, dà la possibilità su richiesta di avere il disco su master stereotype, quindi su nastro. Cosa vuol dire produttore in quel caso, nel tuo caso? Ma nel mio caso, come nella maggior parte dei dischi jazz, il produttore è colui che interviene dalla registrazione finita in poi, quindi colui che si occupa della stampa del CD, della divulgazione, certo, del CD, della distribuzione del CD, e poi dovrebbe fare molte altre cose, ma purtroppo questo è il mercato italiano che non lo consente, perché è un mercato così piccolo, molto piccolo, che non consente certi approcci che magari in altre nazioni, vedi gli Stati Uniti, certo, invece ci sono. Ok, facciamo ascoltare qualcosa. Un altro pezzo, sì. La traccia numero 5. La traccia numero 5 si chiama Dreaming Wide Awake ed è un pezzo di Liz Wright, che è una cantante americana che io amo molto. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Dicevi, Jacopo, che era una ballad questa qua, praticamente. Sì, è una ballad in cui in sostanza nella nostra versione il tema è solo nella parte finale. La parte finale, e, esatto. E comincia subito dai soli, quindi il solo di contrabbasso, poi del piano, del sassofono, quindi il tema finale. Benissimo. È arrivato anche Kenneth. Buonasera, Kenneth. Buonasera. È un amico di questa emittente ormai, Kenneth. Fate dei mobili. Adesso parliamo dell'altro pezzo, Jacopo, del disco più avanti, il penultimo, mi pare. Il successivo, che è Topino Stune. Tutti, lo spieghiamo un momento. Questo è un, ogni musicista cerca di dedicare dei pezzi ad altri, o a situazioni, o ad altri musicisti, o alle mogli, o alle amate, o ai genitori. Uno dei primi, forse l'unico, forse il primo caso questo sarà in cui uno dedica un pezzo a se stesso, perché Topino Stune è un pezzo che io ho dedicato a me, perché Topino era il nomignolo con cui mio padre mi chiamava quando ero piccolino, e ho preso questa idea e ho detto perché no, questo pezzo me lo dedico, anche perché è un pezzo un po' calipsico, un po' di ritmo, e sono cose che mi piacciono particolarmente, quindi questo si chiama Topino Stune. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, il tempo è tiranno, Maurizio, sta passando velocemente. Sì, ma parliamo un momento del pezzo introdotto dalla ritmica, dalle percussioni di Rodolfo, un pezzo brasiliano. Il Brasile è un altro tuo amore, Jacopo. Sì, il Brasile ce l'ho nel cuore, come James Taylor, come un gran parte del pop, anche Genesis o prima ancora Beatles, o anche la West Coast. Ah, West Coast, ragazzi. Antichi amori. Però... Continuo ad ascoltarli e quindi ad averli dentro. Hai voluto introdurre, mettere dentro, cioè sviluppare un pezzo che parte dalla musica brasiliana, tra virgolette. Sì, tra l'altro nel disco precedente ho composto e suonato un pezzo alla chitarra che è cantato in brasiliano da Barbara Casini. Ah. Per cui... Bravissima, tra l'altro. Bravissima, sì, è straordinaria. Benissimo, adesso andiamo all'ultimo pezzo che dobbiamo presentare da disco. Sì, l'ultimo pezzo è un brano scritto da Marc Peillon, dal contrabbassista, il titolo è Vent d'Est. Ok. E restate lì perché dopo c'è una grande sorpresa a due sax. A due sax. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo arrivati alla fine, è arrivato anche Alberto Prisco, che tra poco sentirete nella sua classifica di musica rock, tutto il programma veramente dedicato appunto a queste nuovi ascolti, nuovi gruppi, nuova musica, fino alle 24, sempre qui su Blu Radio Veneto. Prima di salutarci, Jacopo, qualche notizia inerente al sito, i contatti, eccetera, eccetera. Niente, vi ricordo il disco che abbiamo ascoltato, No Voices, edito dalla TRJ Records, che sarà disponibile dai primi giorni del mese di marzo, appunto. E vi ricordo le date che faremo in zona per promuovere il disco, appunto il 28 di febbraio alle Cantine dell'Arena Verona, il 1 di marzo il Q di Padova e il 3 di marzo al Vapore di Mestre. Un grazie a Blu Radio Veneto per avermi invitato, per avermi dato la possibilità di promuovere il disco. Noi gli facciamo in bocca al lupo per il Terminal Live. Grazie. Daremo di sicuro a sentire. Chi ha ascoltato sparga la voce. Ecco, esatto. Va bene così. Allora, Maurizio, noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre qui giovedì prossimo. Avremo una grandissima artista, viene da Genova, si chiama Andrea Celeste, la stiamo aspettando, che tra l'altro è un'amica di Jacopetti, oltretutto, quindi sarà una bellissima serata in proseguo, questa grande che abbiamo appena poc'anzi passato. E ci sono prima, io no, vero? No, giovedì, assolutamente giovedì. No, giovedì. La prossima settimana sei a riposo, giovedì. Solo giovedì. Bene, buonasera allora da Agostino Spallore, da Maurizio Calzavara, buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Radio Veneto, però prima ci sentiamo questo inventato, improvvisato duetto di Kenneth Bailey e Jacopo Jacopetti. Il Kenneth sarebbe stato il suo allievo, il suo figlioccio, si può dire così, giusto? Più o meno, insomma. Va bene. Buon ascolto e arrivederci alla prossima settimana. A risentirci. Ciao. Prego.